Ogni piccolo nerd ha capito che smanettando potrebbe conquistare il pianeta. Ogni piccolo nerd ha capito che il potere digitale è la nuova moneta. Ogni piccolo nerd incominciano i guai ogni volta che non c'è la connessione wifi. Ogni piccolo nerd ha il suo gioco di ruolo, ogni piccolo nerd parla sempre da solo. Il mio desktop ha cambiato sfondo, ogni nerd vorrebbe conquistare il mondo. Il mio desktop ha cambiato sfondo, ogni nerd vorrebbe conquistare il mondo. Il mio desktop ha cambiato sfondo, ogni nerd vorrebbe conquistare il mondo. Il mio desktop ha cambiato sfondo, ogni nerd vorrebbe conquistare il mondo. Fai i conti su Excel, ogni piccolo nerd ha un cuore di pixel. Ogni piccolo nerd è un prodotto ibrido, figlio di una scheda madre ed un disco rigido. Ogni piccolo nerd è uno psicopatico, ogni piccolo nerd ha un IP statico. Ogni piccolo nerd, ogni piccolo nerd, ogni piccolo nerd, ogni piccolo nerd. Il mio desktop ha cambiato sfondo, ogni nerd vorrebbe conquistare il mondo. Il mio desktop ha cambiato sfondo, ogni nerd vorrebbe conquistare il mondo. Il mio desktop ha cambiato sfondo, ogni nerd vorrebbe conquistare il mondo. Il mio desktop ha cambiato sfondo, ogni nerd vorrebbe conquistare il mondo. Usare i programmi nonostante questi siano in versione beta. Ogni piccolo nerd fa stratagemmi e dopo li cancella con il control Z. Ogni piccolo nerd è uno psicolabile, ogni piccolo nerd ha un IP mobile. Ogni piccolo nerd, ogni piccolo nerd, ogni piccolo nerd, ogni piccolo nerd. Ogni piccolo nerd è un prodotto ibrido, figlio di una scheda madre ed un disco rigido.